La giornata butta male a bordo del 18, una vecchietta più veloce ma ha ciulato il posto. L'autista frena, c'è un semaforo rosso, allora salto avanti e mi ritrovo proprio vicino a te. Occhiali dalla montatura spessa, inforcano quel tuo nasino all'insù. Due ricci scuri si abbandonano un po' sulla tracolla di una borsa tipo Louis Vuitton. Le dico, sai che ti ho già vista da ste parti. Lei mi risponde, non ci passo mai, comunque dai che ti risparmio la fatica. Andiamo a bere qualche cosa, io mi chiamo Federica. Le tue scarpine sulle punte cercano il primo bar, mentre le labbra più mature stringono una Gauloise. Sono dipinti sulla pelle quei tuoi pantacollan e quel vestito stretto in vita che mi fa proprio sangue. Mi risveglio dall'inverno dei sensi, comincio a credere non sia tutto un film. E alla domanda cosa fai nella vita le rispondo con un fare che neanche James Dean. Le dico, sai, sono un poeta cantautore di un gruppo che va proprio forte in città. Trasformo i sogni in suoni, immagini e parole, e mi dispero perché sono alla ricerca della mia metà. Tu mi sorridi, poi diventi rossa, c'è qualcosa che mi dice che ti ho dato la scossa. Così il martini sembra fatto apposta, il tin dei due bicchieri che si incontrano risuona nel bar. Cosa combini invece tu, dolcezza? Cosa ti porta a fare i giri in città? Le chiedo con un indiscusso charme, lei comincia come se le avessi dato là. Sono psicologa, conduco una ricerca per la mia università. Provo a capire se è presente una devianza negli individui che corteggiano insistenti le ragazze sui tram. Aggiustano gli occhiali che le cadono giù e all'improvviso si fa seria e non mi dà più del tu. In che rapporti era con sua madre in gioventù? Così mi chiede più pungente di uno spillo nel culo. Sai che penso solo a te sulla spiaggia, straiata al sole sulla riva del mar. E detto questo io le bacio le labbra, il suono dello schiaffo fa tremare la città. Così stizzita lei raccoglie la borsetta, mentre le chiedo quindi non ti va. Poi prende l'uscio sgambettando molto in fretta ed io finisco il suo martini nel bicchiere che ha lasciato a metà. Del 18 ed io mi sento in colpa come un profilattico rotto. Ma mi consola che sono quasi le 8 e c'è una festa sul selciato di un paese a circa un'ora da qui. Vabbè, lo ammetto, è stata una sconfitta e ammetto pure di sentirmi un po' giù. Stasera è d'obbligo impegnarsi di più per cancellarsi dalla testa quegli occhioni blu. Però una cosa vi assicuro l'ho capita, questa esperienza mi ha mostrato la via. Per cui mi sento di dir grazie a Federica. Da lunedì comincio un corso giù alla facoltà di psicologia. Alza la mattina, chissà che ora, come dice lui, dice, ma adesso, adesso vado a fare lo scemo in piazza. Va bene, vado a fare lo scemo in piazza, mette lì un cappellino oppure si pittura tutto di bianco e va. Quello lì cosa fa? A 40 anni fa ancora quel lavoro lì? Va fuori di melona, eh? C'è un'età in cui puoi fare quello, a 30 anni non funziona più.